di marginalizzazione sanitaria, di popolazione degli immigrati che sono presenti sul territorio e sicuramente potrebbe incidere negativamente sulla salute dell'individuo che non ha più accesso alle cure e effetti negativi anche sulla collettività in generale. Forti critiche arrivano anche dalla Chiesa che assicura chi si rivolge a una struttura di accoglienza religiosa non verrà denunciato. La borsa di Tokyo oggi ha guadagnato l'1,6% sull'onda dei piani americani di stimolo all'economia, ma alla chiusura è arrivata la notizia che Toyota, il primo costruttore auto del mondo, ha registrato perdite superiori ad ogni aspettativa. Nell'esercizio in corso, che terminerà a fine marzo, il rosso operativo è di 3,9 miliardi di euro, tre volte di più di quanto previsto solo sei settimane fa. Dagli Stati Uniti intanto rimbalza la notizia che la Ford è in trattativa con la cinese Geely per cedere il marchio europeo Volvo. Proprio la Volvo ha registrato un netto calo degli utili nel 2008 con una perdita netta di 128 milioni di euro nel solo ultimo trimestre 2008 a causa del crollo della domanda mondiale. Resta sospeso il destino di Eluana Englaro, la donna in stato vegetativo da 17 anni. Mentre alla clinica di Udine è tutto pronto per l'inizio dello stop all'alimentazione, il governo pensa a un intervento per bloccare tutto. Ma l'ipotesi di approntare un decreto legge che renda fuori legge appunto lo stop all'alimentazione e all'idratazione sembrerebbe perdere quota. A pesare in particolare sono i dubbi del Quirinale e del Presidente della Camera. Fine, ne riparliamo tra poco nella trasmissione. Parliamo con l'elefante. Il treno sorpassa l'aereo sulla tratta Roma-Milano con l'alta velocità, infatti, ha spiegato l'amministratore delegato di FS Mauro Moretti al Senato. Il treno è passato dal 32 al 48% della fetta di mercato. L'aereo è sceso dal 52 al 39%. Scende di poco anche il numero di chi viaggia fra Roma e Milano in auto. La percentuale passa dal 15 al 13%. In Medio Oriente un razzo sparato dalla striscia di Gaza è caduto sul sud di Israele, ma non ha fatto feriti né danni, lo hanno reso noto le forze armate israeliane. Una notizia è arrivata invece stamattina dagli Stati Uniti per quanto riguarda lo sport, il nuotatore Phelps squalificato per cattivo esempio. Una punizione non per l'uso di doping ma per il cattivo esempio. La Federazione Americana di Nuoto ha sospeso per 3 mesi l'8 volte campione olimpico Michael Phelps in seguito alle fotografie pubblicate dal tabloid News of the World in cui il nuotatore fuma marijuana da una pipetta ad una festa di studenti. Nei giorni scorsi la Federazione Internazionale aveva perdonato Phelps dopo le sue scuse pubbliche parlando di comportamento inappropriato ma anche di fiducia e ammirazione. A casa sua il 23enne fenomeno della vasca, l'unico uomo capace di superare il record di Mark Spitz di 7 ore vinti in una sola edizione dei giochi, ha incontrato più rigore. La federazione statunitense ha annunciato di aver voluto dare a Michael un messaggio forte perché ha deluso molte persone, in particolare i bambini che guardano a lui come un modello e un eroe. A Phelps è stato anche tagliato ogni supporto finanziario federale per la durata della squalifica e se l'Università della Carolina del Sud e il Dipartimento di Polizia di Columbia hanno fatto sapere che non procederanno contro Phelps, lo sceriffo della contea di Richland ha invece promesso severità. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questo GR24, la prossima edizione alle 10. Per la tua azienda? Certo, per l'assistenza sanitaria integrativa dei miei dipendenti ho scelto anch'io Fasi Open e i suoi straordinari vantaggi. E cioè? Innanzitutto nessun esame sanitario preventivo e nessun limite d'età per l'iscrizione. Poi convenzioni con i migliori dentisti, case di cura, poliambulatori. Fasi Open è il nuovo fondo senza scopo di lucro per la salute dei miei lavoratori e delle loro famiglie. È la soluzione per la salute delle aziende. Fasi Open, la qualità Fasi aperta a tutta la tua azienda. FasiOpen.it, numero verde per le aziende 800 085 502. Da oggi la Bibbia ti aiuta a leggere la Bibbia. Famiglia Cristiana presenta la nuova Bibbia per la famiglia, un'opera inedita diretta da Monsignor Gianfranco Ravasi che ti aiuta a leggere il libro più amato di tutti i tempi. Una serie esclusiva di volumi con il nuovo testo CEI, il commento visivo al testo biblico e la spiegazione dei versetti più difficili. Completano l'opera l'Atlante e il dizionario biblico, le mappe a colori, la Bibbia per i bambini. La nuova Bibbia per la famiglia. Non perdere il secondo volume questa settimana, solo con Famiglia Cristiana. C'è un mondo di benessere dentro una bottiglietta di Yakult. Lo stesso benessere che nasce nel tuo intestino, lì dove agisce Yakult. E se sta bene il tuo intestino, stai meglio anche tu. Yakult, un mondo di salute. Vogliamo 50! Ecco i fast di Dialogo, l'assicurazione che rivoluziona il mercato dell'RC Auto con prezzi sbalorditivi e ti fa risparmiare fino al 50%. Chiama l'833-1166, 833-1166 o vai su dialogo.it. Da 4 ruote 1107. Il Sole 24 Ore presenta Studio La 24 Avvocati, il software creato per gestire in modo completo studi legali di qualsiasi dimensione. Rilevazione automatica dei tempi di lavoro, accesso al web, pianificazione, contabilità, studi di settore, integrazione dei contenuti e servizi editoriali del Sole 24 Ore come guida al diritto, l'Ex 24, rassegna stampa, tutto in un unico ambiente di lavoro. Un unico prodotto, un unico contratto, un partner unico, il Sole 24 Ore. Studio La 24 Avvocati, automazione, controllo e performance dello studio legale. Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Fino a quando non interverrà una legge sul testamento biologico, fino a quando non ci sarà una legge sul testamento biologico, l'alimentazione e l'idratazione, l'acqua e il cibo, non possono essere sospese da chi assiste i soggetti interessati che non sono in grado di provvedere a se stessi. E il testo che pare sia nella nuova versione definitivo di un decreto legge che tra pochi minuti, appena si sarà riunito, il Consiglio dei Ministri potrebbe varare e sottoporre alla firma del Quirinale. Il decreto legge diventerebbe esecutivo nel giro di poco tempo e nella clinica La Quiete di Udine dovrebbero essere in forza di legge sospese le pratiche del cosiddetto protocollo di disidratazione, cioè i primi passi che condurrebbero alla estinzione di Eluana Englaro per fame e per sete, appunto per disidratazione e per mancata nutrizione. Sono cose che stanno avvenendo ad Horas e sono cose ovviamente tragiche, fanno parte della dimensione tragica che questo caso ha ormai assunto per l'insieme dell'opinione pubblica italiana. È un caso privato e anche pubblico e ne parliamo subito con il ministro Sacconi, che è il ministro, diciamo, proponente, firmatario in quanto ministro della salute di questa ipotesi di decreto al Consiglio dei Ministri. Ministro Sacconi, c'è stata una discussione molto serrata tutto ieri, un po' sotto pelle, ci sono riserve molto forti, pare, del Quirinale, del presidente Napolitano e di Gianfranco Fini, il presidente della Camera, sulla opportunità di emanare questo decreto legge da parte del Governo. Ci può dire, senza ovviamente violare le regole di riservatezza del Consiglio dei Ministri, come stanno le cose a questo momento? Credo che nel corso del Consiglio dei Ministri esamineremo comunque la situazione alla luce di quanto sta avvenendo a Udine. Da un lato il percorso che sembra confermato di riduzione progressiva della somministrazione dell'alimentazione e dell'idratazione, dall'altro l'iniziativa della Procura che sembra intenzionata ad indagare l'effettiva volontà in vita attiva della signora Englaro. Quella volontà presunta che è stata posta alla base della richiesta di autorizzazione del padre e dell'ordinanza della Corte d'Appello. E se questa è nel corso della mattinata, si tratta di verificare se la Procura intende anche procedere con atti di tipo cautelativo perché non si determini un esito irreversibile nel mentre essa sta indagando circa l'oggetto che dicevo. Cioè la Procura potrebbe bloccare il protocollo di disidratazione allo stato dei fatti, almeno provvisoriamente, per nuovi accertamenti. È vero che avete parlato con il Presidente Emerito della Corte Costituzionale, lo riferisce una nota ANSA, Valerio Nida? No, non ho parlato direttamente, ho ho accolto con interesse la sua proposta, quale è stata trasmessa dalle agenzie. Si tratta di una proposta che ha lo stesso risultato, ove accolta, della proposta che in un primo momento io avevo presentato, che sottolinea di più ancora probabilmente la natura transitoria di questa disposizione, in attesa di una regolazione parlamentare sulla fine di vita. Quindi quella frase nel nuovo testo, fino a quando non interverrà una legge sul testamento biologico. Anche noi avevamo nel primo testo ipotizzato una norma di questo tipo, cioè in attesa di una compiuta regolazione della fine di vita. Ministro Sacconi, le faccio una domanda alla quale ovviamente lei può benissimo non rispondere, ma gliela devo fare. È possibile che il Consiglio dei Ministri vari comunque questo decreto, lasciando al Presidente della Repubblica la responsabilità di firmarlo o meno? Questo non lo so, io mi auguro che ovviamente non si produca nessuna ragione di conflitto istituzionale, che come sempre deve essere evitata, ma qui la posta in gioco è davvero straordinariamente alta. Va bene. E quindi valuteremo tutto ciò che potrà essere utile a salvare la vita di Eluana, non creare un esito irreversibile di fronte a tanti dubbi. Noi ci siamo ispirati ad un principio laicissimo, quello della prudenza, della cautela, della precauzione, di fronte a tanti dubbi di carattere sostanziale e formale. Io credo che questi principi di cautela non possano che deporre per una scelta di vita. Sarebbe tra l'altro paradossale un esito, quello per cui Eluana Englaro sarebbe l'unica persona a morire in assenza di una regolazione, perché poi quando questa regolazione sulla fine di vita interverrà, qualunque sarà il testo, sulla base delle proposte che sono state avanzate da tutti i gruppi parlamentari, la volontà della persona non sarà mai presunta, ma dovrà essere sempre direttamente espressa e certificata. Bene, ne parleremo anche nel corso della trasmissione. Grazie Ministro, buon lavoro in Consiglio dei Ministri, grazie per averci dato questa anticipazione. Arrivederci. La linea a Deborah Rosciani per la Borsa. Apertura positiva per le borse europee trainate dalla buona performance di Tokyo e Wall Street, anche se Tokyo stamattina ha dovuto subire l'allarme utili lanciato da Toyota, ma per il settore dei motori è noto quanto sia importante in questo momento. La crisi internazionale è molto molto dirompente, tanto che stamattina appunto il Consiglio dei Ministri è impegnato anche per quello che riguarda il nostro paese a varare un pacchetto di sostegno al settore. Andiamo a vedere comunque quanto aprono positivamente le borse europee, mezzo punto percentuale di rialzo Parigi, Francoforte e Londra. Milano un po' più sostenuta, guadagna lo 0,8% sull'S&P MIB stamattina, recuperano nettamente i titoli del lusso, Bulgari più 3,41, Luxottica più 2,79, ma anche i titoli del settore bancario, Banco Popolare più 2,24, Monte dei Paschi più 1,94, Intesa San Paolo più 1,73%, nessun titolo negativo in questo momento, quelli che guadagnano meno, Eni più 0,06%, Generali più 0,18%, Snam Rete Gas più 0,19%, Autogrill più 0,2 euro su dollaro a 1,27,81 i mercati. Per i mercati è tutto, la linea torna a Giuliano Ferrara. 800 24 00 24, la domanda è: deve o non deve, può o non può il governo intervenire nel caso di Eluana Englaro e fermare il protocollo di disidratazione? Questo è il nome tecnico di ciò che un plotone di volontari, diciamo, dell'eutanasia passiva sta cercando di fare intorno al letto di Eluana Englaro nella clinica La Quiete. È la questione del decreto. Oggi il grande scandalo gridato dalla grande maggioranza della stampa d'opinione e di informazione, prendo per tutti l'articolo di fondo di Ezio Mauro su Repubblica, è questo. In una Repubblica bene ordinata, una volta che un giudice ha emesso una sentenza definitiva, questa sentenza si deve rispettare. Non c'è barba di governo, il governo è il potere esecutivo, che sta accanto al potere legislativo ed è distinto dal potere ordinamento giudiziario in tutte le repubbliche costituzionali, non c'è barba di governo che possa rovesciare una sentenza. E qui c'è stata una sentenza che dice vi autorizziamo, una sentenza di un tribunale civile di Milano, confermata indirettamente dalla Cassazione, vi autorizziamo, dal momento che la volontà presunta di Eluana e il suo stile di vita indicano che questa era la scelta che lei avrebbe fatto, vi autorizziamo a staccare il sondino nasogastrico, sostanzialmente a non darle più cibo e acqua e a lasciarla morire dopo 17 anni di vita vegetativa in seguito al famoso maledetto incidente stradale. Allora, Mauro dice: questa è una vergogna, non si può rovesciare. Io faccio questa domanda, abbiamo qui Stefano Ceccanti, lo abbiamo qui in studio, che è cattolico, è senatore, un giurista ed è un dirigente del Partito Democratico. E più o meno la pensa su questa questione, mi pare, come Mauro. Io faccio questa obiezione, che non è un'obiezione cavillosa, almeno spero che non venga presa così, è un'obiezione sincera, vera. È un'obiezione che ho fatto anche in tutta la campagna sull'aborto, dopo che fu varata la moratoria dell'ONU contro la pena di morte. Che cos'è la moratoria contro la pena di morte? Sospendete le pene di morte. Che cos'è l'atto che noi lodiamo di un governatore democratico o repubblicano di uno Stato americano che dice fermate quella pena di morte? Che cos'è la nostra ansia? È l'ansia di fermare delle sentenze passate in giudicato, definitive, delle sentenze che da molti anni ordinano la soppressione di un essere umano, perché consideriamo talmente sacra la vita umana che, a prescindere dal fatto che quelle persone abbiano magari ammazzato una vecchietta per luridi scopi di lucro, noi vogliamo salvaguardare la loro esistenza in vita perché sono vive e vogliamo che restino vive, che lo Stato, una decisione giuridica, non le metta morte. Allora, non avete paura dell'ipocrisia quando vi scatenate contro un atto del governo di moratoria rispetto alla sentenza definitiva che condanna Eluana Englaro a morire? Professor Ceccanti. Sì, però vedo, Ferrara, questo è un argomento, però l'argomento più forte che travolge anche questo suo è un altro. Cioè, come diceva prima anche il ministro Sacconi, come lei adombra oggi nella sua lettera a Napolitano, lei fa un altro ragionamento che è quello di dire: ma in fin dei conti noi sappiamo, la politica deve alla fine prevalere, noi sappiamo che in Parlamento c'è una maggioranza parlamentare che voterebbe una legge restrittiva e che impedirebbe quel tipo di soluzione, perché il governo non può anticipare per decreto questo è il suo argomento di primato della politica. Ma questo suo argomento di primato della politica non funziona. Poi torno anche sull'altro, sì. Perché questa volontà del Parlamento non si è espressa. Cioè, noi siamo in Commissione Sanità, c'è un dibattito, c'è una proposta di testo base, non c'è stato nessun voto e quella è una materia su cui c'è riserva di voto segreto. Quindi è come se il governo, facendo un decreto, dicesse: io anticipo la volontà del Parlamento perché presuppongo che ci sia già, la faccio e poi casomai voi la cambiate. Ma il Parlamento non si è espresso, non ha deciso liberamente a voto segreto se quella è la sua volontà. Quindi c'è un problema di primato della politica sbagliato, nel senso che il governo si sovrappone alle decisioni che il Parlamento non ha preso. Lei adesso sta polemizzando con un altro argomento, anche in modo efficace, non dico di no, però la no, del voto segreto. Però no, attenzione, siccome io le ho posto una questione, no, aspetta, molto ora semplice, so, però perché poi la moralità è in questo che si vede se è integra. Abbiamo fatto o no una campagna per la moratoria della pena di morte? Sì, sì, ma è stata vinta, sì. Sono state bloccate virtualmente le sentenze di morte passate in giudicato, sì. Applaudiamo il governatore del Texas, sì. Ferma la mano, sì, del boia. Ma e perché non possiamo consentire al governo? No, perché Ferrara, il problema è questo. Premesso che non è così evidente che siamo in un caso di eutanasia e quindi di morte, e quindi assimilabile alla pena di morte. Questo è una tesi, ma non è evidente, non è di per sé evidente. Lì ma le procedure, senso, scusi, non è evidente. Non è evidente perché, secondo altre tesi, siamo di fronte a un fenomeno di accanimento terapeutico e non di eutanasia. Su questo i pareri degli scienziati sono tra loro diversi. Non possiamo assumerne acriticamente nessuno. Ma c'è un altro problema, esistono delle regole per sospendere le sentenze, ci sono delle regole precise di diritto che consentono in determinati casi di sospenderle, è previsto nell'ordinamento. Qui il problema non è astratto, è se un decreto legge possa intervenire, quindi un atto dell'esecutivo possa colpire una sentenza definitiva giudiziaria. C'è fior fiore di sentenze della Corte italiana, ma anche della Corte europea di diritto dell'uomo, per cui non si può fare. Questo è il punto. Lei mi individua uno strumento che non c'è nell'ordinamento, non c'è in Italia un sistema e per dice, fare questo. Al di là delle questioni di moralità dell'agire, io faccio un'obiezione tecnica, lo strumento se ci è fosse nel nostro ordinamento c'è una norma che dice il governo è abilitato a fare un decreto per sospendere sentenze, si potrebbe fare, ma non c'è. Ho capito. Sentiamo il professor Buttiglione, che è in collegamento con noi, che ringraziamo, il presidente dell'UDC. Professor Buttiglione. Noi chiediamo che il decreto venga fatto, chiediamo che ognuno si prenda la sua responsabilità, il governo la sua e il capo dello Stato la sua. E non vogliamo credere che il capo dello Stato, il supremo arbitro della politica, voglia entrare e diventare parte in un gioco dividendo così gravemente la comunità nazionale. L'argomento del professor Ciccanti mi pare irricevibile. Se si fa un decreto legge il quale commina invece che l'ergastolo la pena di 20 anni a un carcerato con sentenza passata in giudicato, è automatico che quel carcerato, se ha fatto 30 anni, viene scarcerato, perché si applica la legge più favorevole, e in questo caso è evidente che la nuova legge prevale sulla legge antica. È una regola di diritto universalmente riconosciuta. Quando sopravviene un nuovo regolamento legislativo, quando sopravviene una nuova legge, in questo caso la nuova legge si applica anche a sentenze passate in giudicato. Non dimentichiamo poi che questa sentenza è una sentenza la quale interviene contro una legge esistente e con una chiara usurpazione di poteri da parte della magistratura o di una corte contro il Parlamento, che quella norma sulla base della quale Eluana Englaro viene mandata a morte non l'ha mai votata. Esiste in Parlamento un'ampia maggioranza, certo può essere sovvertita, però se il governo presume di anticipare la volontà del Parlamento fa una cosa giusta e non sovverte una sentenza, perché non è che interviene su quella sentenza, interviene sul diritto alla vita di 2000 persone che in Italia oggi sono come Eluana Englaro e potrebbero essere domani mandate tutte 2000 a morte sulla base di questo, come lo chiamerò, legge, no, non è una legge, di questa interpretazione legislativa data dalla Corte di Cassazione. Difende il diritto alla vita non di Eluana Englaro intervenendo su di una sentenza, cosa ovviamente mostruosa ed inaccettabile, no, formula una norma generale e astratta, come diceva il grande omonimo di Giuliano Ferrara. Sa che c'è un grande giurista dell'Ottocento che si chiamava Ferrara, anche lui, forse un antenato, e che diceva che la legge è una norma generale astratta. Bene, quella che noi chiediamo al governo è una norma generale astratta. Interviene anche a salvare la vita di Eluana Englaro? Certo, interviene anche a salvare la vita di Eluana Englaro. E perché no? Benissimo. Qual è il motivo per cui questo dovrebbe essere proibito? Chiaro. Sentiamo Maurizio da Brescia, che ha un'opinione diversa, credo, dalla mia. Sì, Maurizio, ecco, prego. Niente, ma il mio pensiero è questo. Per me è il fatto che è giusto che esca una legge, cioè ci deve essere un testamento, va bene. Però adesso, come adesso, non c'è questa legge. Non vedo perché non bisogna ascoltare quello che dice il padre. Se lui è testimone del fatto che Luana la pensava così, è giusto che la cosa finisca così? Secondo me il pensiero è questo. Se Luana la pensava bene, così, è come se l'avesse scritto. Le vorrei fare una domanda. Secondo lei, nella legge sul testamento biologico, che dovrebbe sistemare questa materia incandescente, tragica e molto triste, molto malinconica, in questa legge, secondo lei, bisogna affermare che la volontà della persona da estinguere, diciamo così, da liquidare eventualmente, deve essere chiara, con tanto di bollo, espressa in modo assolutamente, diciamo, incontestabile, o basta che lo stile di vita di questa persona, magari atea, magari laica, magari che non crede nella speranza, insomma, lo stile di vita di questa persona e testimonianze, diciamo, indirette, riferite. Secondo lei bisogna scrivere in questa legge che la volontà deve essere chiara, oppure la volontà può essere anche presunta? No, sicuramente la volontà deve essere chiara. Sicuramente, ecco, quello penso. In questo caso lei sa che la volontà non è chiara, non è certificata, è presunta. Ho capito, però siccome non c'è la legge a questo punto, secondo me è giusto ascoltare il padre. È giusto ascoltare il padre perché non c'è la legge. Benissimo. Va bene, la ringrazio. Enzo da Como. Sì, buongiorno dottor Ferrara e ai suoi ospiti. Buongiorno. Buongiorno. Senti, io voglio fare tre sciocche ma secche domande e vorrei da lei o dai suoi ospiti tre risposte secche. Eluana respira? Eluana le batte il cuore? Eluana ci vede se stiamo di fronte a lei? Eluana capisce se c'è la luce o se c'è il buio? Ecco, vorrei rispondere, ci vorrei delle risposte a questo, perché se la risposta è sì, di cosa cavolo stiamo parlando? stiamo parlando bene, di la risposta la chiederemo dopo la pubblicità a Giovanni Barillari, assessore alla salute e all'equità sociale del Comune di Udine, che sarà in contatto con noi e che è il coordinatore del gruppo di medici del Friuli, convinti che un medico che ha fatto il giuramento non può togliere l'alimentazione artificiale a Iluana, non può togliere la vita, perché violerebbe il codice deontologico. È l'animatore di un movimento, diciamo, che tende alla salvezza di Iluana Englaro nel caso specifico, in quanto salvezza anche del modo di essere medici e di concepire la medicina come cura e non come eliminazione del paziente. Glielo chiederemo a lui. Io volevo però prendere occasione da questa domanda venuta da Como, che mi sembra molto, molto bella, molto sintetica, riferendovi di un articolo abbastanza curioso, direi anzi straordinario, perché è un articolo di Avvenire, il quotidiano dei Vescovi, che sta facendo una fortissima campagna contro la liquidazione di Iluana Englaro, che dice, è intitolato "Quella tosse squassa le prime coscienze". Cos'è successo? È successo che Iluana è stata tolta dal suo ambiente, diciamo così, naturale, la clinica dove da 15 anni viene curata dalle due suorine misericordine, dalla loro piccola comunità di carità cristiana. È stata tolta da quel letto, da quella situazione, da quella routine. Iluana dorme, Iluana si sveglia, Iluana viene accompagnata a fare una passeggiata sulla sedia a rotelle all'aria fresca, Iluana viene pulita, viene lavata, viene nutrita, viene accarezzata, viene ascoltata. Questo, tutte le testimonianze, diciamo, delle suore della clinica Beato Luigi Talamoni vanno in questa direzione, e anche di tanti altri che hanno visitato Iluana, eccetera. Tolta da lì e messa in un'ambulanza, questa donna incontra il professor De Monte, il primario con l'orecchino, il primario così, che ha una faccia bella, drammatica, un po' da outsider della medicina, di uno che vuole affermare cose in cui crede, che si è messo alla testa di questo plotone di volenterosi che sono lì e che dovrebbero applicare il protocollo di disidratazione. Questo primario ha detto: io sono stato devastato dall'incontro con questa persona, non è come la vedete nelle foto dei giornali, dei rotocalchi, la bella ragazza sorridente, è un'altra cosa, è una malata che si è consumata in 17 anni di vita vegetativa e la sua vista mi ha devastato. Il professor De Monte è un primario di rianimazione, quindi deve averne viste di tutti i colori, ma è stato devastato dalla vista di Iluana. Pare che ci siano delle ragioni. Iluana si è messa a tossire, si è agitata. Passa la prima notte, racconta Lucia Bellaspiga nell'editoriale di Avvenire, la seconda andrà meglio, si dice il medico, ma così non è, perché Iluana non pare più la stessa. Poche ore fuori casa e qualcosa è già cambiato. Tossisce Iluana, tossisce, sì, tossisce. È di una tosse che squassa i suoi forti polmoni, ma forse di più l'udito e le coscienze di chi l'ascolta e non sa che fare. Tossisce, si scuote, quasi si strozza, e intanto, proprio come farebbe ciascuno di noi, tende a tirarsi su, cerca aria, solleva le spalle, ma non riesce. Dove sono quelle mani che a Lecco sapevano sempre cosa fare? Perché non accorre chi immediatamente compiva quel piccolo gesto che dava sollievo? Iluana tossisce sempre più, una tosse che accenna ad essere ribellione di un corpo che è richiesta, che è grido, una tosse che beffarda sembra fare il verso a chi dice Iluana è morta 17 anni fa. No, un morto non si agita nel letto sconosciuto. Gli infermieri volontari provano di tutto, è sempre Lucia Bellaspiga sul giornale Avvenire che racconta, ma appartengono all'equipe di De Monte, conoscono a memoria il protocollo per farla morire. Che ne sanno ora dei piccoli gesti che sono propri di una vita, di quella vita? Come si gestisce una morta che fa i capricci e nel solo modo che conosce pesta i piedi? Dovevano essere devastati anche loro l'altra notte, se alla fine si decidono, questa è la notizia, a fare il fatidico numero di Lecco. E con nuova umiltà chiedono al medico curante di Iluana: come facevate a farla stare bene? Questa è una cosa abbastanza... adesso. Lei è un giurista, Ceccanti, ma è naturalmente anche una persona umana. Si rende conto dell'importanza di questa notizia che ci dà il quotidiano Avvenire? Ci dice che questa persona ha reagito male al trasporto e al cambiamento di status e di ambiente. E comunque ha reagito. Quindi la sua Il fatto che non sia un vegetale, che non sia un albero, che non sia una pianta, che non sia, è come dire, tangibile. I medici stessi hanno dovuto chiamare le suorine e i medici della clinica Beato Luigi Talamone di Lecco per dire: che facciamo? Questo non vi inquieta, anche nella dimensione, lei è giurista ma è anche un sì, senatore? Sì. No, io tutto ciò ci inquieta, però io non so dare risposte di tipo medico-scientifico rispetto alle reversibilità di coma di questi dati che ci vengono forniti. Io non ho certezze su questo, io registro che ci sono medici che leggono queste cose in maniera opposta. Mi limito qui e mi riconosco incompetente a giudicare questo. Posso ricordarle il nome di Ponzio Pilato? No, perché il caso di Ponzio Pilato è diverso. Ponzio Pilato era un giudice che abdicò la sua responsabilità professionale di giudice. Va bene, io non faccio il medico, quindi lei, non posso... lei è un giurista ferrato, diciamo. Parlarle di Ponzio Pilato è stata un'inutile provocazione. Allora, la pubblicità e poi riprendiamo la trasmissione. 800 24 00 24, deve o no il governo intervenire nel caso di Eluana Englaro? Grazie. Prendete i bottoni di 15 camicie, moltiplicate per 50 paia di scarpe e poi per 5 gemelli. Avrete il numero di classici nel nuovo millennio, 150.000. Un club esclusivo di cui potrete far parte grazie a un eccezionale finanziamento. Classe C Station Wagon, ha tutti i numeri per piacervi. Scoprite l'unicità del suo Agility Control di serie. Iniziativa su vetture disponibili e ordinate entro il 28 febbraio, salvo approvazione di Mercedes-Benz Financial Services Italia. Informazioni su mercedesbenz.it all'877-4411. Voi che vi svegliate all'alba per una azalea o per un'arancia, voi che ci regalate il vostro tempo come volontari, voi che in qualsiasi modo riuscite ad assicurarci il vostro piccolo, grande contributo, voi che passate giorni e notti davanti a un microscopio, tutti voi siete la forza e l'anima dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, perché siete voi a dare alla ricerca la forza della continuità per un futuro libero dal cancro. Salve, sono Luca, direttore di un supermercato Coop. Volevo solo ricordarvi che Coop cerca sempre di farvi risparmiare. Come? Vi offriamo il 20% di ribasso su oltre 100 prodotti Coop, tutti i giorni. Fino al 29 marzo. Coop, dalla tua parte, noi. Domani con il Sole 24 Ore, Plus 24. Investimenti. Perché gli ETF tengono le posizioni durante la crisi? Titoli di Stato. Cosa fare se cala il rendimento dei bot? E in più, Art Economy 24. Tutte le informazioni sul mercato artistico internazionale. Domani in regalo con il Sole 24 Ore, Plus 24. Il settimanale di finanza e risparmio. Signore e signori, nell'angolo rosso, Ursus, campione del mondo, 110 kg. Certi confronti sono impietosi, come quelli con le polizze auto Zurich Connect. Puoi risparmiare anche 200 euro. Prova, se il nostro preventivo non è più conveniente della tua polizza, ti regaliamo 10 euro in buoni benzina. Chiama 848 58 85 85 o vai su zurichconnect.it. Fonte libretto rosso 4 ruote, profilo 3 Milano. Zurich Connect è un marchio Zurich SPA. Parliamo con l'elefante. Professor Buttiglione, lei è un leader politico, diciamo, del movimento di ambito cattolico, no? Questa è la sua cultura, la sua fede. Allora, io devo farle un'obiezione forte che c'è nell'articolo di fondo di Ezio Mauro su Repubblica, che c'è in molte delle argomentazioni laiche o laiciste intorno al caso di Eluana Englaro. Loro dicono: la Chiesa sta facendo questa battaglia, non solo loro per la verità, anche un vescovo emerito dissidente come il vescovo Casale, l'arcivescovo emerito di Foggia, ma poi molti, no? C'è questa posizione del Cardinal Martini che dice che bisogna sfumare, che le verità sono tante sulle questioni di inizio e di fine vita, l'ha detto in un saggio sulla rivista del San Raffaele. E poi c'è la posizione anche di Tettamanzi, che è contrario a ciò che si sta facendo ad Eluana, e lo ha detto chiaramente, ma contemporaneamente invita al silenzio orante, alla preghiera, a un modo di essere cristiani. Anche l'arcivescovo di Udine ha detto: pregate ma non in piazza, un modo di essere cristiani che mantenga, come dire, un contatto con i sentimenti di coloro che non sono d'accordo con la dura, radicale, per tenere in vita ad ogni costo Eluana Englaro, e quindi per andare contro i desideri del padre, che sono i desideri delegati, secondo il padre, a lui da sua figlia. Allora, professor Buttiglione, la obiezione è questa: dicono la Chiesa, i cattolici, coloro che si identificano con queste posizioni più radicali, più forti, a tutela della vita di Eluana Englaro, trasformano la fede cristiana, la cultura cristiana, da fede delle persone, da come dire, sentimento del divino, in religione civile, cioè in una sorta di religione politica, fanno un uso politico del sentimento di fede e vogliono imporre legislativamente, coattivamente, addirittura ricorrendo a un decreto contro una sentenza della magistratura, la loro visione delle cose a tutti, e questo rende la Chiesa, come dire, impalatabile per il mondo moderno, dove la libertà e l'autodeterminazione sono il principio fondamentale. Cosa rispondete a questa forte obiezione che viene fatta? Mi sembra tanto forte la voce che radice quanto debole la sostanza logica della obiezione. Cioè mi pare un'argomentazione che non vale. Stiamo parlando della vita umana. Lei mi ha sentito mai dire la vita umana è inviolabile perché è scritto così nelle scritture o perché lo dice il Papa? No, noi parliamo della nostra vita. Quando si fa politica, quando bisogna dare un giudizio politico, ognuno deve portare l'esperienza della propria vita. L'esperienza che noi abbiamo della vita ci dice che Eluana Englaro è viva. Ho sentito molti articoli in cui si dice che è morta. No, è viva. Lo diceva bene l'ascoltatore che ha chiamato poco fa. E anche noi abbiamo tanti dubbi, ma nel dubbio bisogna privilegiare la vita. Come si fa a far morire una persona se non è nemmeno sicuro che quella persona voleva morire? Provate ad andare da un giudice a dire: il mio zio d'America, quello ricco, mi voleva lasciare tutti i suoi beni. E il giudice vi dirà: dov'è il testamento? Non c'è. Ah, ma l'ha detto! L'ha detto, sì, l'ha detto, probabilmente è vero che l'ha detto. Quante cose diciamo che non pensiamo davvero e che poi quando riflettiamo diciamo no, non va bene. Magari ha detto che gli voleva lasciare tutti i suoi beni, poi ci ha ripensato e non l'ha fatto. E noi faremmo morire una persona su di una base così fragile. Le pare una argomentazione dogmatica tratta dalla Bibbia, tratta dalle encicliche? Oppure si dica, siccome siete cattolici non avete diritto di parlare. La vostra esperienza di vita non conta nulla. E siete cittadini di seconda, di terza categoria, i loti. Mi pare che questo sia il succo dell'argomentazione che viene levata contro di noi. Io non mi uniformo in politica all'autorità del Papa, dico la mia esperienza di uomo, e se questa coincide con quello che dice il Papa, perché nella mia vita ho sperimentato che quello che diceva il Papa era vero, che vi interessa a voi? Ecco, io vedo in questa argomentazione una la volontà di ridurre i cattolici a cittadini di seconda categoria, ma secondo anche una offesa contro la cultura laica. Va bene, perché, grazie. Scusa, mi faccia dire, sì. Il meglio della... Io sono stato un allievo di Norberto Bobbio. Bobbio sulla vita aveva convinzioni fortissime, tutta la grande cultura laica ha avuto convinzioni fortissime. Pensate che Benedetto Croce oggi sarebbe con loro o con noi? Pensate che i grandi illuministi su questi temi, la vita e la morte, sarebbero con loro o con noi? Io penso che sarebbero con noi e non con loro. Non parlino a nome della cultura laica, dicano le loro idee, come io dico le mie. Bene, grazie professor Buttiglione. Grazie, Elefante. Molto. Arrivederci. Allora, Giovanni Barillari dovrebbe essere in contatto con noi, assessore alla salute e all'equità sociale del Comune di Udine. Qui c'è una questione molto importante, penso che anche Stefano Ceccanti, che è qui con me nello studio, lo riconoscerà. La questione della deontologia medica, effettivamente, è curioso, non per gli olandesi, che hanno già una legge per l'eutanasia, dove addirittura per l'eutanasia infantile, il protocollo di Groningen, lì è normale che ci siano delle zone mediche, delle aree mediche deputate a infliggere la morte a persone la cui vita è considerata indegna di essere vissuta, anche a bambini per esempio con la spina bifida. Ci sono reparti medici in Svizzera dove si pratica il suicidio assistito a richiesta, insomma sono come delle agenzie della buona morte che funzionano a pieno ritmo. Ci sono medici, tecnici, operatori sanitari che a vario titolo trafficano con la morte e trasformano il senso della loro professione da quello della cura e della salute della persona a quello del riposo eterno come soluzione finale per la persona. Barillari non ci sta, ci spieghi perché? Pronto? Signor Barillari? Ah bene, credo sia saltata la linea e quindi andiamo avanti su questo tema fondamentale, cioè la deontologia medica. Ne parliamo con Stefano da Roma. Pronto Stefano? Sì, mi sente? Sì, certo. Buongiorno. La sentiamo. Benissimo. Il mio contributo era il seguente. Io per cercare di farmi un'opinione, per costruirmi un'opinione, perché onestamente è molto difficile, mi sono rivolto a un amico anestesista. Sì, ecco, il medico. Sì, un medico anestesista, sì. E quindi una persona che per professione ovviamente si trova di fronte a situazioni... Certo. E che cosa le ha detto? Allora, lui mi ha detto questo. Allora, quando arriva in ospedale, facciamo il caso, una persona con fortemente traumatizzata, supponiamo, sì, che abbia avuto, sì, un incidente stradale, un qualsiasi, sì, dramma, eccetera, eccetera. Allora, se questa persona ha dei danni gravissimi ai centri nervosi che governano, per esempio, le funzioni vitali, alias battito cardiaco, alias respirazione, e quindi questa persona è necessariamente vive attaccata alle macchine, sì, perché senza l'ausilio di queste macchine il cuore non batte, i polmoni non pompano, e se questa persona ha l'elettroencefalogramma piatto, quindi non risponde al classico, certo, piccotto che si può dare su un braccio, su una coscia, eccetera, allora questa persona viene dichiarata, diciamo, morta cerebralmente, sì, perché effettivamente se non è attaccata, sì, ci sono i famosi protocolli dell'Università di Harvard, sì, esatto. E allora cosa diceva l'anestesista? E questa anestesista dice, in questi casi ci si rivolge ai parenti e dice, siete favorevoli all'espianto, perché questa persona senza l'ausilio delle macchine non l'espianto degli organi, certo, è il tema di un articolo, grazie, di Stefano Lorenzetto sul Giornale, che dice, ma perché allora non si fa l'espianto degli organi per salvare altre vite? Non lo si fa perché Luana non è una persona morta cerebralmente, non fa parte del famoso protocollo di Harvard, è una persona radicalmente, integralmente viva, che attraverso un protocollo medico viene morta, non dico uccisa perché sennò mi dicono che sono un integralista, un oscurantista e non so che cosa, resa morta, trasformata da persona viva in persona morta, ecco, così è più eufemistico, è più somigliante al linguaggio, alla neolingua che si vuole parlare in questi casi, che naturalmente fatto da un medico sembra strano. Barillari, ci sono. Buongiorno, ecco, finalmente siamo in grado di parlare con lei. Ci dica perché vi siete ribellati a Udine, tra medici, nell'ambito poi della politica municipale, lei è assessore, mentre il presidente della regione è dalla parte di Beppino Englaro e del protocollo. Perché vi siete ribellati? Ma semplicemente perché noi, quando cominciamo a esercitare la nostra professione, dobbiamo fare il giuramento di Ippocrate, che ci impone di osservare nell'esercizio della professione alcune regole molto chiare. E poi c'è un codice deontologico che ripete le stesse cose. Adesso io credo forse voi le abbiate già citate, ma sostanzialmente, brevissimamente, nel giuramento si dice: giuro di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di una persona. Questo concetto viene ripreso dal codice di deontologia medica, dice all'articolo 3: dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'uomo, senza perderci in altri rivoli. Quindi ecco, la contraddizione secondo me e secondo noi in termini sta nel fatto che un medico che ha prestato giuramento e che si impegna a osservare il codice deontologico non può mettere in atto la sentenza, che peraltro deve essere messa in atto da un medico, e questa è una contraddizione che purtroppo non è stata affrontata e se diciamo approfondendo in termini della quale è evidente che un medico italiano non può fare questa cosa. Tra l'altro è una questione quasi giuridica, paragiuridica, perché c'è un giuramento, un codice deontologico, Ippocrate, infatti, Ippocrate, questi, quarto secolo avanti Cristo, una roba antica, importante. È fuori dall'ordine chi viola questi articoli. Perché se no, se cominciamo a dire, però, insomma, discutiamo... Sentiamo su questo il giurista Ceccanti. Professor Ceccanti. No, qui siamo al confine tra interpretazioni diverse. Secondo la sentenza della Cassazione non siamo in un ambito eutanasico, ma siamo in un ambito di sospensione accanimento terapeutico, e quindi non c'è questa violazione. Questo si può discutere, però sono legittime opinioni di medici che hanno pareri diversi sul significato di congiuramento rispetto a questo caso specifico. E comunque c'è una sentenza che in realtà questa catena di sentenze, questi problemi hanno affrontati. Le sentenze non sono infallibili. Io non sto dicendo che ha ragione la sentenza, però questi temi sono stati affrontati e hanno avuto una soluzione diversa. Chiedo scusa, faccio un esempio, lo dico anche a Barillari ma anche a lei. Un malato di Alzheimer, privo di autonomia, ha una forma di vigilanza che non lo induce a nessuna organizzazione mentale di sopravvivenza. Per vivere ha bisogno della cura, ha bisogno di essere cibato, nutrito, idratato, esattamente come la disabile grave Luana Anglaro. Che facciamo? È anche quella una vita indegna di essere vissuta? E se le persone che hanno paura della propria perdita di autonomia dicono, nel momento in cui io perdessi le facoltà mentali appunto organizzate in relazione alla mia sopravvivenza e fossi in balia degli altri, considererei una violenza su di me il fatto di essere mantenuto in vita, dovete uccidermi, noi eseguiamo la loro volontà? Invece Ferrara, lei sta utilizzando il classico argomento del pendio scivoloso. Sì. Cioè, una volta che io accetto una cosa, che è l'argomento chiaro, però io mi rifiuto di ragionare sul pendio scivoloso. Noi stiamo discutendo di un caso specifico, stiamo discutendo se in quel caso il coma sia irreversibile e quindi in realtà la sospensione sia accanimento terapeutico oppure no. Quel tipo di sentenza ha concluso questo. Lei fa benissimo a dubitarne, fa benissimo a sollevare il problema che accettando questa soluzione non si scende nel pendio scivoloso, ma qui il pendio scivoloso non c'entra, stiamo discutendo di quel caso e della soluzione con la sentenza. Le strade indirette, e poi ritorniamo a parlare del pendio scivoloso, cioè di questa cosa molto importante, le sentenze e le leggi che fanno cultura e che ci costruiscono il mondo in cui poi noi viviamo, anche con Barillari e con i nostri ascoltatori per l'ultima parte della trasmissione. Le strade. Strade in diretta. Traffico sempre molto intenso in prossimità delle grandi aree urbane, condizionato in queste ore anche dal fine settimana ormai alle porte, poi da diffuso maltempo. Ci sono infatti piogge sparse su buona parte del nord, intense su Liguria, Piemonte e Lombardia, poi al centro tra Toscana e Lazio e anche al sud su Campania, Calabria e Sicilia orientale. Le segnalazioni da strade, autostrade, 3 km di coda sulla 4 Padova-Venezia tra Dolomirano e Padova Est verso Padova a causa di un cantiere. Sul tratto urbano della stessa 4 siamo dunque alle porte di Milano, più difficile spostarsi verso Brescia per un incidente risolto da poco. Rallentamenti per incidente sull'autosole tra Sasso Marconi e Bologna Casalecchio verso Milano, traffico intenso e incolonnato poi intorno a Roma su più punti del grande raccordo anulare e sulle principali consolari. Sulla via Appia un incidente provoca code tra Ciampino e il grande raccordo anulare verso Roma. Incidente anche in Sicilia alle porte di Palermo, rallentamenti sulla 19 Palermo-Catania. Torniamo a parlare di maltempo, attenzione al nevischio in prossimità del traforo del Monte Bianco e sull'ultimo tratto della 5, nevica sulla 22 del Brennero tra Bressanone e il confine di Stato e poi in Svizzera. Per questo motivo nel corso della giornata potrebbe scattare un nuovo blocco dei mezzi pesanti diretti in territorio elvetico lungo la 9. È tutto, noi ci risentiamo tra un'ora. Promo 24. Finalmente arriva una soluzione pratica e semplice per chi viaggia spesso per lavoro, l'ufficio in tasca. Si chiama PosteKey ed è l'ultimo prodotto creato da Postecom in collaborazione con Adobe per consentirti di lavorare come in ufficio pur essendo altrove. È sufficiente inserire la chiavetta USB in qualunque PC per accedere ai servizi online PosteCert, creare, convertire e condividere documenti, moduli ed email in formato PDF, sottoscriverli con firma digitale, trasportare e salvare i tuoi dati personali e molto altro ancora. PosteKey è davvero facile e sicura e può essere utilizzata anche per accedere ad altri servizi complementari offerti dal gruppo Poste Italiane. Per informazioni su PosteKey, visita il sito www.poste.it. Parliamo con l'elefante. Barrito, Barrito. Allora, benvenuto. Naturalmente mi dicono che c'è Gianni dalla provincia di Lucca che dice che la mia posizione è oscurantista e medievale. Subito voglio sentire il suo parere. Gianni. Buongiorno Ferrara, buongiorno. Rispetto per lei, però considero la sua posizione oscurantista e medievale, perché qui è un discorso di rispettare la volontà di Luana Anglaro, che mi sembra ben rappresentata dal padre. Siccome non ci sono motivi di negare il punto che il padre abbia riferito, perché è una persona per bene, è un discorso di rispettare la sua volontà. In ogni caso, se vogliamo seguire il discorso del decreto, allora io voglio seguire il vostro discorso e andare oltre. Se il decreto deve essere, che lo facciano anche per bloccare tutti gli espianti di organo, perché vengono effettuati a cuor battente. Quindi, seguendo il vostro metodo di giudizio, a questo punto perché non pensare che potrebbe esserci un miracolo, visto che il cuore batte, e consentire che venga ucciso? Anche lì viene liquidato, come dice lei, il paziente. Va bene, io naturalmente accetto la sua critica, le osservo che se questa è la luce sono contento di essere definito oscurantista, e se la modernità è questo, è diciamo inverare con metodi dolci i miti di, come dire, di selezione della razza, e qui mi riferisco all'eugenetica e all'aborto selettivo, oppure i miti di eliminazione del debole del Terzo Reich, allora se la modernità è questo, io sono contento di essere medievale, di stare in compagnia dei santi, delle beghine, delle bizzoccere, di tutti coloro che pensano che la vita umana non deve essere maltrattata, non deve essere toccata. Certo, c'è un pensatore cattolico, mi pare, che ha detto: attenzione, potreste fare della vita umana un idolo. Questo mi ha fatto pensare. Su ogni cosa, se tu batti, ribatti, se costruisci, allora diventa, può diventare un idolo, no? Un idolo di teatro, un idolo nel senso che diventa, come dire, un argomento d'opinione, no? Perde la sua carnalità, la sua verità, diventa una specie di astrazione mentale folle, no? Il bios, la vita umana come... Io sento la forza anche delle obiezioni alla posizione nella quale mi identifico. Mi sembra però che siano tutto sommato, di fronte poi alla realtà della cosa, obiezioni che cadono. La realtà della cosa è che non si può togliere cibo ed acqua ad una persona con un camice bianco addosso, in una clinica, in una casa di cura. Non è possibile. Non è possibile. Voglio dire, nella discrezione del rapporto privato, caso per caso, la lotta contro l'accanimento, la possibilità di lenire il dolore, l'uso della morfina, il rispetto della morte equivale per me al rispetto della vita, ma non si può statuire pubblicamente, affidandolo ai medici, cambiando la loro deontologia, costruendo dei protocolli che la gente deve essere ammazzata quando non è in condizione di vivere come noi, provvisoriamente adulti sani. Non è possibile, secondo me è una cosa brutta che costruisce un mondo brutto. È molto semplice la mia obiezione, e non è estetica, è morale. Per brutto intendo un mondo moralmente difettoso, indifferente. Professor Barillari, adesso cosa farete voi? Perché poi lì avete questa clinica, avete questa casa di riposo. Posso essere non aderente alla sua domanda? Certo. Sulla base degli spunti di alcune osservazioni dei... Certo. Allora, per quel che riguarda la volontà della paziente, mi riferisco a un ascoltatore intervenuto prima, questa mi sembra sia stata frammentariamente ricostruita. Dove invece un paziente esprime una netta volontà è il testimone di Geova, che chiede di non essere trasfuso quando ha un'emorragia. Nessuno di noi si è mai sognato di lasciar morire un testimone di Geova non trasfondendolo, e nessuna sentenza ha mai condannato il medico che aveva trasfuso il testimone di Geova contro la sua volontà. Inoltre, se parliamo poi di accanimento terapeutico, e invece la morte deve essere, diciamo, la vita deve essere rispettata e non bisogna eseguire artifici, a questo punto allora io mi rendo conto che tiro un pochino le conclusioni, sono un po' fazioso, provocatorio, ma dico benissimo, allora noi non dobbiamo rianimare un arresto cardiaco. E io mi chiedo, a questo punto, sulla povera ragazza, che differenza fa moralmente fra un'iniezione di potassio che dà una sistolia, e quindi chiamiamola iniezione letale, e lasciarla morire? Dal punto di vista morale, non prendiamoci in giro, questo è un omicidio, è un togliere la vita. E tornando infine al giuramento, allora nessuno mi ha mai risposto finora se si può liberamente abiurare il giuramento, non osservare il codice. Allora vale tutto. E infine le chiedo scusa di questo ultimo input. Accanimento terapeutico. Io ho la sensazione, mi dispiace, sono molto grossolano nelle mie affermazioni, me ne rendo conto, però quando noi consideriamo l'alimentazione enterale, che vuol dire che va direttamente nello stomaco, che nulla ha a che vedere con l'alimentazione parenterale che va in vena, ricordiamoci che l'alimentazione enterale non è altro che lo sminuzzare quello che noi normalmente introduciamo a pranzo, a cena, Invece della bistecca, gli elementi della bistecca. Oh, ma guardi, chiunque abbia avuto un parente con ictus a casa sa benissimo che gli faceva, convinto che questo sarebbe vissuto di meglio e più a lungo, gli faceva, esperienza personale, i frullatoni con quelli che erano, diciamo, gli ingredienti, le pietanze preferite, e gliele metteva nella sacca, che poi per gravità, attraverso un tubicino, va nello stomaco, il fattore limitante. Senta, dottor Barillari, cosa le dicono i suoi colleghi medici? Hanno un camice bianco, hanno fatto il giuramento di Ippocrate, ma la pensano diversamente da lei? Sono suoi colleghi, sono persone per bene? Qui non si sta discutendo, ripeto, perché questo è un ricattaccio morale di serie B fra assassini e fanatici che denunciano la mano degli assassini. Qui il concetto di omicidio, di eliminazione fisica, di uccisione di una persona è un concetto culturale, cioè è la legge, è un'interpretazione della legge, è la sentenza del giudice. Non c'è nessuno che vuole male a Eluana e la vuole uccidere perché le vuole male, o la uccide perché le vuole male. Quindi, però, cosa le dicono queste persone per bene, come lei, che però la pensano diversamente, quando lei oppone loro questa che sembrerebbe un argomento che taglia la testa al toro? Un medico non può eliminare un malato. Analizzando, antepongono una sentenza al giuramento, e io dico: ragazzi, voi siete prima medici, avete prestato un giuramento, avete fatto delle scelte nella vita, voglio sperare che avete scelto di fare il medico con un intento ben preciso, cioè lottare per la vita e per la difesa della salute delle persone, e purtroppo invece alcuni antepongono le sentenze a quella che invece è la loro missione, ciò che loro deontologicamente si sono impegnati a professare, l'opera che si sono impegnati a svolgere per tutta la loro vita. E quindi, diciamo, vanno nuovamente contro il giuramento, perché a un certo passaggio dice che, adesso mi spiace di non citarlo alla lettera, tuttavia osserverò le leggi finché queste non saranno in contrasto col mio codice deontologico, lo dice chiaramente. E anche qui c'è una grave contraddizione. Purtroppo, le ripeto, alcuni medici antepongono il senso della sentenza a quella che dovrebbe essere la loro scelta. Grazie, dottor Barillari. Abbiamo moltissime telefonate, devo dire, per equilibrio, diciamo, e per senso e per rispetto della verità, che molte telefonate sono a favore del padre di Eluana, della sua decisione di fare questa lunga battaglia, e anche pubblica, per ottenere giustizia, e la giustizia la identificano nel fatto che Eluana deve essere lasciata andare, deve essere lasciata morire, negandole il cibo e l'alimentazione, perché questa è la morale, diciamo, della libertà, della sua autodeterminazione. Questo è ciò che lei avrebbe voluto, e quindi questo è ciò che deve essere fatto. Io non so quale sia la vera decisione della regina in democrazia, che è l'opinione pubblica. Non so cosa succederebbe se ci fosse un paradossale, assurdo referendum su che cosa bisogna fare nel caso di Eluana Englaro. Quello che so è che ognuno è attaccato, professor Ceccanti, alle proprie idee in modo così molto forte, che bisognerà mantenere, diciamo, un senso e un clima di rispetto qualunque cosa accada, anche se il governo decidesse veramente di fare questo decreto e mettesse il Presidente della Repubblica di fronte alla durissima situazione di dover decidere se firmarlo o no. Credo che su questo possiamo convergere, insomma. Qualunque cosa accada, manteniamo la calma e cerchiamo di usare un linguaggio accettabile. Sì, mi sembra però che voi abbiate portato argomenti a favore di una legge restrittiva, ma questi argomenti non siano sufficienti a fondare un decreto. Questo è il punto. Certo. Cioè, mi sembra che anche il professor Buttiglione, ma un po' lei, vi muoviate all'insegna di una cultura politica sostanzialista. Siccome noi siamo convinti che questo è un omicidio, prendiamo il primo strumento possibile e lo attuiamo. Primato della politica, il governo lo può fare e lo fa. Io penso che dobbiamo essere un po' più basati su criteri procedurali. Secondo me gli argomenti per fare una legge restrittiva voi li avete mostrati, ma questi non sono sufficienti a fondare la legittimità di un decreto. Bene, grazie professor Ceccanti, grazie a Buttiglione che ci ha già lasciati, grazie al dottor Barillari e agli ascoltatori, a Franca Fossati, Gloria Guerrera che lavorano in redazione, e in regia Alessandro Chiappini, Giorgio Matella, linea Gianluca Nicoletta. Grazie a tutti, ci sentiamo, dico sempre ci vediamo, sta cosa delle telecamere, di cui peraltro non ho alcuna nostalgia. Ci sentiamo al microfono, dai microfoni, dalle radio, lunedì alla solita ora, alle 9. Grazie. Radio 24, la passione si sente. bracco della signora Lina? Sono partiti! Certi confronti sono impietosi, come quelli con le polizze auto Zurich Connect. Puoi risparmiare anche 200 euro. Prova! Se il nostro preventivo non è più conveniente della tua polizza, ti regaliamo 10 euro in buoni benzina. Chiama 848 58 85 85 o vai su zurichconnect.it. Fonte libretto rosso 4 ruote, profilo 3 Milano. Zurich Connect è un marchio Zurich SPA. Nuove regole per i bilanci con il decreto anticrisi. Cosa cambia per le imprese? Oggi sul Sole 24 Ore i chiarimenti degli esperti e tutte le misure previste sul riallineamento per i soggetti IAS e le rivalutazioni. Oggi sul Sole 24 Ore. Non aspettare gli incentivi statali. Approfitta degli eco incentivi Citroën. Se passi alla gamma Citroën AirDream, ti garantiamo già da oggi.